Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Come sapete, in questa trasmissione amiamo moltissimo raccontare storie di chi resiste, di chi si oppone alla penetrazione delle mafie. Motivo per il quale vi ricordo anche la nostra mail, che è sottotiro@radio24.it, quindi segnalateci le storie. Tra quelle che vale la pena raccontare c'è quella che prende origine da un'iniziativa degli industriali di Napoli, di Confindustria Napoli, che ha presentato alcuni giorni fa un progetto che si chiama Business Chance, vale a dire un'opportunità per fare affari, di sviluppo, un'opportunità per rinascere. La cosa bella è che i destinatari di questo progetto sono i ragazzi che sono attualmente nel carcere minorile di Nisida. Quindi gli industriali di Napoli si rivolgono ai giovani under 25, vale a dire coloro i quali hanno meno di 25 anni, che purtroppo hanno avuto a che fare con il carcere minorile. Trovo che questo progetto sia straordinario perché proviene da chi crea sviluppo, vale a dire le imprese, insieme ovviamente alla collaborazione del Dipartimento della Giustizia, di Microcapital, della Cooperativa del Quadrifoglio e dello stesso Consiglio Regionale della Campania. Per parlare di questa iniziativa io ho ai microfoni Giovanni Lettieri, che è il presidente dell'Unione Industriale di Napoli. Buongiorno Lettieri. Buongiorno a voi. Allora, ci puoi illustrare questa splendida iniziativa? Guardi, noi abbiamo approfittato della settimana della cultura di impresa di Confindustria Nazionale per inserire all'interno dell'evento della settimana della cultura di impresa questo nostro, come diceva lei, evento che abbiamo fatto, che è quello di incentivare l'impresa nei giovani, poiché è un po' di tempo che noi come Unione degli Industriali di Napoli siamo impegnati in prima linea sull'aspetto sociale, sulla responsabilità sociale di impresa. Abbiamo fatto diversi progetti. Uno di questi più importanti è quello che abbiamo presentato nei giorni scorsi, come diceva lei, e cioè mettiamo a disposizione una borsa di studio, poiché noi stiamo dando attenzione a tutti i giovani, gli stiamo, diciamo, spingendo a fare impresa. Tutti i giovani significa anche quelli che purtroppo in passato sono stati poco fortunati e hanno avuto una vita disagiata, e quindi quelli in particolare del carcere di Nisida. Noi abbiamo istituito una borsa di studio di 20.000 euro all'anno per 5 anni insieme a un imprenditore napoletano che vive in Russia, ha una banca in Russia e che noi abbiamo premiato come napoletano eccellente nel mondo, è un'altra cosa che facciamo ogni anno. 20.000, ma questo importo aumenterà, all'idea di business fatto da un ragazzo o da una ragazza del carcere di Nisida. E questo è veramente una bellissima iniziativa, perché la detenzione dovrebbe avere un fine rieducativo che spesso sappiamo non avere, così come poi dovrebbe essere la società in grado di reinserire, o meglio inserire, questi ragazzi nel momento in cui lasciano la detenzione. Quindi fa piacere che il mondo dell'impresa, il mondo quindi che crea economia, che crea sviluppo, il mondo, diciamo così, della giustizia, tra loro si parlino per addivenire ad un progetto concreto. Che cosa vi aspettate, Lettieri, da questa borsa di studio? Cioè, avete già idea di quello che potrà uscire da questi ragazzi, oppure siete curiosi voi stessi? No, per la verità siamo curiosi. Noi abbiamo fatto un altro progetto un paio di mesi fa per incentivare i ragazzi delle scuole a diventare imprenditori. Noi abbiamo bisogno di più coraggio contro la devastante logica del posto fisso e della intermediazione politica adesso strumentale, che purtroppo ancora oggi rappresenta la maggior parte dell'idea dei giovani nel mezzogiorno. La creatività dei giovani va incoraggiata, affinata, aiutata a trasformarsi in idee di business. Anche là è stata una sorpresa. In questo caso noi ci aspettiamo delle sorprese, ma ancora più importante dell'importo che mettiamo a disposizione ogni anno per l'idea è il tutor che noi affiancheremo al ragazzo. Ah, alla bene, ragazza. Bene, noi bene. metteremo un business angel, un tutor che affianca il progetto del ragazzo e lo porta a compimento. Ecco, questo è molto molto interessante, perché vuol dire che non li lasciate soli. Il fatto stesso che per 5 anni ci saranno 20.000 euro a disposizione vuol dire che alla fine il budget di 100.000 euro è un budget importante. Guardi, per la verità noi volevamo mettere di più anche. C'è stato consigliato in questo momento di partire con 20.000, ma se la cosa prenderà piede noi certamente aumenteremo questo budget. Bene, bene. Ecco, fuori onda, Lettieri, stavamo amabilmente parlando di un'altra cosa che è interessante, vale a dire la penetrazione del vostro mondo, il mondo degli industriali, di chi fa impresa nelle scuole, attraverso un progetto con delle pagine bianche finali. Ce lo può raccontare? Sì, io credo che noi per risolvere il problema di Napoli e del Mezzogiorno abbiamo bisogno di più imprese, abbiamo bisogno di posti di lavoro, e i posti di lavoro si creano attraverso le imprese. Dicevo prima che i ragazzi nostri crescono con questa logica devastante del posto fisso, allora stiamo cercando di trasmettere la cultura di fare impresa. Abbiamo fatto realizzare da una ragazza di 13 anni napoletana un fumetto. Nel fumetto spieghiamo di come si fa impresa, l'abbiamo distribuito nelle scuole di Napoli e dell'Interland di Napoli, nelle scuole medie inferiori, quindi bambini piccoli, elementari anche, e questi bambini hanno scritto, alla fine di questo fumetto c'erano delle pagine bianche, hanno scritto un progetto imprenditoriale. Un mese fa abbiamo premiato i primi 10 progetti imprenditoriali di questi bambini con il ministro Maroni, con alcuni calciatori che erano più appealing per i bambini, certo. Il ministro Maroni, per dire che c'è impresa e legalità, e siamo stati per la verità entusiasti, perché sono uscite delle idee brillantissime da parte dei ragazzi. Il primo premio ha vinto un bambino che diceva conviene, anziché portare i libri di scuola avanti e indietro, i zaini pesano e c'è anche un problema ecologico, io ho l'idea di fare un My School, che è una specie di iPad per la scuola, dove dentro ogni anno scarichiamo i testi di libro, il bambino si porta il My School a scuola e c'è i testi scaricati dentro. Allora, come vediamo, i giovani sono molto più, come dire, intuitivi a volte degli adulti, ma è spesso questo, ahimè, è un difetto del nostro meraviglioso paese, che a volte è un paese per vecchi anziché per giovani. Allora, io ringrazio Giovanni Lettieri, presidente di Confindustria Napoli, per questa chiacchierata, e dico a lui e ai nostri radioascoltatori che poi seguiremo questo progetto e parleremo, perché no, e capiremo chi avrà vinto questa borsa di studio per giovani ex detenuti. Grazie a Lettieri, grazie in regia Paolo Corleoni, in studio Laura Faggin e Roberto Galullo. Vi auguro una buona giornata.